morire amata solo te. Voglio soffrire, soffrire tutti, odiare, dimenticare cosa sei stata per me. Venga a me tutto il dolore di questo amore, curare tutto di te, quello che fu voglio scartare. Non vivo più, non amo più nessuna, nessuna mai potrò più amar dopo te. Voglio morire per non soffrire ancora, perché soffrire vuol dire amare sempre te. Curare che spenga in me tutto il dolore di questo amore. Curare tutto di te. Potrò più amare dopo te. Voglio morire per non soffrire ancora, perché soffrire vuol dire amare sempre te. Curare che spenga in me tutto il dolore di questo amore. Potrò più amare dopo te. Voglio morire per non soffrire ancora, perché soffrire vuol dire amare sempre te. Perché soffrire vuol dire amare sempre te. Perché soffrire vuol dire